9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 23 di marzo. Questa puntata è dedicata a capire innanzitutto come la pensate voi a casa, quindi formulate rapidamente un'opinione, un'impressione a seconda di quello che avete sentito nell'edizione di ieri dei giornali radio, dei telegiornali, dei giornali di stamattina, una volta che li abbiate già compulsati stamattina presto prima di andare a lavorare, perché la questione è quella che ha il più diretto impatto delle vicende libiche in corso sul nostro paese, e il più diretto impatto è quello che arriva e passa da Lampedusa, di cui avete visto ai telegiornali ieri l'esasperazione, più che comprensibile secondo me, più che comprensibile, degli amministratori locali, dei cittadini locali che si sono visti riversare in pochi giorni, poche settimane, tre volte il totale di coloro che arrivarono nell'intero anno scorso, e quindi sono oggi in una condizione, con l'arrivo di nave San Marco, di cominciare lo sgombero, ma si trovano esposti come trincea dell'intera Europa, non solo dell'Italia, sottoposti a una pressione terribile, e questa pressione terribile è il primo conto che ci viene presentato delle operazioni avviate, a mio giudizio, l'abbiamo già visto, in una maniera un po' singolare e maldestra all'approvazione della risoluzione 1972 da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ieri il ministro Maroni ha illustrato alle regioni, ai rappresentanti di tutte le autonomie italiane, alle regioni, all'Unione delle Province Italiane, all'ANCI, il piano per una ripartizione dei 50.000 profughi, ipotizzando che questa sia la prima ondata, ed è una stima che al Viminale considerano conservativa. L'illustrazione del piano ha visto la responsabile attenzione dei rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni. Approfondiremo questo aspetto. Intanto noi cominciamo con un collegamento con Ida d'Ippolito, che è segretario del comitato Schengen, e segretario del comitato Schengen perché ieri il presidente Margherita Boniver, ex sottosegretario agli esteri, ha compiuto proprio un giro nelle aree interessate. Una delle questioni fondamentali è quella del filtro di sicurezza per queste migliaia di nuove persone che vengono per il blocco che è saltato dalla Tunisia. Il ministro Maroni oggi è in Tunisia per vedere di restringere le viti con le nuove autorità del governo post Ben Ali. C'è una distinzione fondamentale da fare tra coloro che avessero i titoli per chiedere ovviamente il riconoscimento dello status di profughi, e quindi l'asilo politico, e coloro che invece sono semplici immigrati clandestini. Ecco, buongiorno, buongiorno onorevole. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, dalla ricognizione di questa situazione, che è d'emergenza non solo per l'impatto umanitario ma anche per ciò che chiede in termini di strumenti di accertamento dell'identità e soprattutto dei titoli per distinguere le categorie dei migranti con cui ci troviamo alle prese, la valutazione che lei può darci qual è? Ma è una valutazione, credo sia quella diffusa in generale tra i ben pensanti. Ci troviamo dinanzi a una situazione straordinariamente grave e il nostro paese ha risposto con immediatezza, anche se naturalmente la precarietà della situazione libica non ci lascia tranquilli sul numero, sul flusso, sulla quantità dei flussi che si potrebbero riversare sulle nostre coste. Lei ha già accennato all'impegno del ministro dell'Interno Maroni su questo fronte, la sua presenza in Tunisia, ma anche il piano già annunciato e accolto ampiamente, che chiama in campo la solidarietà nazionale di tutte le regioni, quindi una solidarietà interna a cui deve però necessariamente corrispondere una solidarietà sul piano internazionale. Lei sa bene che Lampedusa aveva risolto, tra virgolette, il problema degli immigrati all'indomani dell'accordo con la Libia siglato dal nostro governo. È una situazione, quella di Lampedusa, che noi come Comitato Schengen avevamo attenzionato e anche valutato positivamente nei mesi decorsi. Oggi la situazione è drammatica, gli immigrati sopravanzano i cittadini e i problemi di accoglienza interna sotto gli occhi di tutti. Non manca però naturalmente voglio dire la consapevolezza che la situazione non era prevedibile ed è una situazione davvero straordinaria. So che può dedicarci solo pochi altri minuti. Uno dei temi che immediatamente arriva dai nostri ascoltatori segnalato è ma il coordinamento europeo, la ripartizione europea dei flussi, si potrà, al di là delle richieste italiane, concretamente che strumenti ha per essere attivata? Ma intanto saranno decisioni delle prossime ore. Il coordinamento europeo credo che sia l'altra faccia della risposta italiana alla risoluzione ONU. Del resto la posizione del nostro governo, quella assunta recentemente, credo che sia più chiara e anche in qualche modo correttamente più esigente nei confronti dell'Europa. La disponibilità che abbiamo dato a corrispondere responsabilmente agli impegni della risoluzione non esentano l'Europa da uguale responsabilità nei confronti dell'Italia, che rappresenta uno dei paesi a maggiore esposizione. Siamo la porta del Mediterraneo e questo è un dato oggettivo, quindi strumenti coercitivi tra virgolette sono quelle della contrattazione al tavolo europeo sulle posizioni di ciascuno o della singola forza di ciascun paese, e credo che noi in questo senso possiamo contare su una capacità di persuasione non solo diplomatica ma soprattutto virgolette, naturalmente nel rispetto del partner europeo, anche compulsiva. Ecco, io su questo aspetto del compulsiva, nel ringraziare l'onorevole Di Polito, sono molto d'accordo. Cioè la mia opinione è che poiché gli asset che l'Italia mette a disposizione per il dispositivo multilaterale di vigilanza e di attuazione della risoluzione 1972 sono, tranne che per il caso degli Stati Uniti, che hanno una piattaforme proprie sottomarine nucleari, hanno capacità di rifornimento in volo di lungo percorso, pensate che hanno fatto intervenire bombardieri B2 che si sono levati in volo direttamente dagli Stati Uniti, riforniti in volo, e a parte oltre agli Stati Uniti la Francia, che ha basi sia nella propria terraferma che in Corsica e ha una portaerei nucleare che ha dislocato in zona, quindi ha una autonomia molto rivendicata e orgogliosamente sottolineata e presentata sin dal primo momento come la maniera con cui la Francia interpretava i margini di attuazione della risoluzione 1972, e questo è un passo che ha condotto molti problemi, come vedete, e tutte le polemiche con la novità ieri dell'accordo per andare a una struttura vera di pianificazione invece e di comando NATO derivano dai muscoli flessi dal presidente francese per sottolineare il cambio di passo rispetto alla compromissione con la vicenda tunisina di Ben Ali. Ecco, in realtà, dicevo, gli asset italiani così fondamentali perché l'azione vada avanti, secondo me dovrebbero con una giusta riservatezza ma anche con una certa determinazione fatti valere anche per la questione dell'impatto e della ripartizione degli oneri e delle responsabilità che ci deriva dall'impatto dei migranti e dalla difficoltà di distinguere coloro che hanno diritto allo status di profughi e all'asilo da coloro che invece sono semplicemente clandestini che ne approfittano, e da coloro che poi naturalmente sono la ripresa di quel fenomeno che l'accordo con la Libia aveva stoppato, cioè pura carne umana, purtroppo figlia della disperazione dell'Africa subsahariana organizzata da trafficanti che ci lucrano sopra. Uno degli aspetti fondamentali è la verifica e la tenuta dell'accordo ieri illustrato nei termini di massima dal ministro Maroni con i rappresentanti dell'autonomia, a cominciare dai presidenti delle regioni. Abbiamo collegato con noi il presidente della regione toscana Enrico Rossi, io lo ringrazio. Buongiorno presidente. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, dal suo punto di vista, una primissima valutazione di questo meccanismo di emergenza illustrato ieri dal ministro Maroni, le faccio due domande. Il primo è, le strutture sarebbero pronte, nel vostro caso, ma anche un giudizio generale, diciamo così, a nome dei presidenti di regioni, le chiedo perché non è stato possibile per noi rintracciare Errani perché aveva impegni, le strutture sono pronte da questo punto di vista? Secondo, sono finanziati davvero gli strumenti aggiuntivi necessari per mettere in atto rapidamente un dispositivo di questo tipo, oppure significa per voi, per i comuni, problemi aggiuntivi dal punto di vista anche degli oneri finanziari? Ma le strutture, io credo che in generale nella mia regione, ma anche in tutto il paese, qualche decina di migliaia di profughi possono essere accolti nelle strutture pubbliche. Per la mia regione oggi pomeriggio avrò un incontro con il prefetto di Firenze che coordina tutti gli altri prefetti, avremo certo ospedali dismessi, strutture come scuole dismesse, altro ancora, insomma, o caserme che potranno ospitare senz'altro i 4.000 previsti, perché poi insomma dovremo vedere quanti saranno effettivamente. Quindi da questo punto di vista credo che il nostro è un paese che può farsi carico di tutto questo, e noi abbiamo risposto anche prontamente all'appello che ci è stato rivolto dal capo di Stato, dal presidente Giorgio Napolitano. Abbiamo subito chiarito però che insomma è necessario che siano messi a disposizione anche adeguati finanziamenti. A quanto si risulta, il governo nazionale ha reperito 500-600 milioni che saranno distribuiti in base alla permanenza, in base al numero dei profughi che le diverse regioni dovranno accogliere. Come sapete si tratta di 1.000 per milione di abitanti, quindi insomma nella mia regione grosso modo si oscilla tra 3.500-4.000, e ovviamente a tutti loro sarà garantito l'alloggio, e dentro questo finanziamento ci sono anche le risorse per fare di manutenzione alle strutture che prima rammentavo, che potrebbero prestarsi poi per l'accoglienza. I 6 mesi di tempo sono legati al fatto che sono i 6 mesi per accogliere la domanda di asilo, dopodiché questi diventano persone libere che possono insomma viaggiare nel nostro paese e tentare di inserirsi. Io non credo che cambi il quadro, non si deve speculare insomma su questo fatto del fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese con la presenza di qualche decina di migliaia di persone. Credo altresì che abbia ragione il governo, insomma mi pare di aver capito che non vale il principio della reciprocità che c'è invece con Schengen. Beh, insomma, una volta che queste persone diventano ospiti, diventano accettate come asilo politico, io credo che dovrebbero avere il diritto del riconoscimento dell'asilo politico anche in altri paesi dell'Europa, insomma questo mi sembra che sia molto ragionevole in termini di richiesta, e come sentivo dire anche bisogna che il governo italiano si faccia sentire, ecco. Ecco sì, questo è un punto. Ci sono più che diciamo andare sui giornali. Esatto. dovrebbe secondo me nelle sedi appropriate far capire che quelli che il signore che è intervenuto prima di me definiva gli asset, ecco, sono asset che si trattano e vanno trattati con determinazione, con rigore. Ecco. Credo che anche per i cittadini del nostro paese sapere che noi ci facciamo carico di qualche decina di migliaia di profughi, che in 6 mesi gli riconosciamo l'asilo politico, ma che poi questi hanno diritto di muoversi per l'Europa, insomma, mi pare che sarebbe tutt'altra cosa che pensare di tenere invece tutto bloccato nel paese, in una provincia, in una regione, insomma sarebbe tutt'altra dimensione della cosa. Però insomma questo aspetta il governo. Presidente Rossi, le chiedo un'ultima cosa, perché so che poi anche lei ha impegni e quindi non si può fermare molto. È chiaro che il meccanismo per affrontare in questi anni è stato un tema su cui la politica si è molto divisa, molte polemiche, ma in realtà il meccanismo, il più del meccanismo per affrontare il fenomeno di primo impatto dei migranti, tanto clandestini quanto la verifica dei titoli per chi poi può rimanere, quanto poi la verifica dei titoli per chi ha diritto all'asilo politico nel caso di profughi politici, è appunto nazionale e di questo non si discute. Però le chiedo, nell'esperienza sua comparata, nell'osservazione non solo per la responsabilità che ha in Toscana, ma anche ragionando con i suoi colleghi presidenti in altre regioni d'Italia, si sbaglia a vedere che ci sono poi in realtà delle maniere diverse in cui è stato organizzato la complementarietà, al di là del servizio a carico della Polizia di Stato, dell'individuazione dei centri, ma tutto ciò che si aggiunge poi nella logica di come si tratta l'immigrato che sta nei centri, di come lo si apre a una prima integrazione con la società? È vero o non è vero che esistono diversi modelli in realtà nelle diverse regioni italiane e in qualche misura è possibile trarne un primo bilancio? Da cosa dipende secondo lei? Ma non lo so, se lei si riferisce ai CIE, noi in Toscana non abbiamo ancora un centro di questo tipo e mi risulta anche che da parte del governo, sia perché l'utilizzo di questi centri è molto diminuito, ci sia la volontà di farlo. Noi abbiamo ricevuto una lettera, la proposta che c'era stata fatta riguardava una zona però che era passibile di esondazioni e quindi insomma, abbiamo risposto correttamente che per ragioni proprio di era meglio evitare. Era meglio evitare, ecco, costruire una struttura in una zona che è esondabile, insomma, dove ci va l'acqua, non era possibile. Noi avevamo anche detto però che pur non condividendo i CIE, questa era la nostra posizione, molto chiara, insomma, non ci sembra, però eravamo disposti a discutere con il governo nazionale un'ipotesi che prevedesse anche una gestione affidata alle associazioni del volontariato, realtà piccole che non somigliassero a galere come invece rischiano di essere le realtà più grandi. Insomma, avevamo dato una disponibilità condizionata anche a una discussione di merito, insomma, perché le cose si possono fare anche rispettando i diritti umani, rispettando le persone. L'indagine che invece ha fatto Medicine Sans Frontier sui CIE in Italia è disperante, perché ha denunciato una situazione, sì, anche igienico-sanitaria che non è quella accettabile in un paese civile. Quindi insomma, io credo che il tema dell'immigrazione non può essere un tema che si utilizza come uno spauracchio, insomma, per raccogliere un po' di voti, per raccogliere un po' di consensi. Sono temi delicati, l'immigrazione è insieme una risorsa e allo stesso tempo l'integrazione è un problema che bisogna affrontare con razionalità, con capacità di governo. Ecco, anche su questa vicenda, appunto, come dicevo, tutt'altra rispetto ai CIE, qui noi, se ho capito, stiamo parlando di un diritto costituzionale. Sì, insomma, della verifica di un diritto costituzionale, esattamente. Quindi insomma, non è che parliamo dei CIE, parliamo di tutt'altra cosa, però anche qui non si deve agitare la bandiera della paura, noi invece ci opporremo. Credo che la previsione massima fatta dal ministro Maroni possa essere presa sul serio, insomma, non è che siamo a giocare all'otto, quella è la previsione massima. Se è quella, qualche decina di migliaia di persone non cambiano assolutamente il quadro dell'immigrazione nel paese. Possiamo affrontarlo in modo razionale, è importante che tutte le regioni da questo punto di vista abbiano dato la loro disponibilità e credo che ci siano le condizioni, insomma, per affrontare come dobbiamo, come è nostro dovere, un tema così delicato, nella speranza che insomma appena cessati i bombardamenti poi riprenda il dialogo, riprendano la politica, riprenda il suo corso. Questa credo è la speranza per tutti. Sentiamo che viviamo una situazione particolarmente difficile, particolarmente drammatica, insomma, la Libia è vicina, siamo divisi da un braccio di mare, ecco, non è possibile, insomma, pensare che non ci si debba far carico anche dei problemi che ci sono nel Mediterraneo, certo, che anche il nostro ruolo internazionale, il rispetto delle risoluzioni dell'ONU in qualche modo ci impone, fatto con sobrietà. Ecco, sì, io ringrazio il Presidente e soprattutto condivido l'appello a tentare di evitare quello che però inevitabilmente la realtà politica italiana di questi anni ci ha sempre confermato. L'immigrazione è un tema caldo, un tema di forte impatto emotivo e le forze politiche da una parte e dall'altra nell'alternarsi delle responsabilità o in me lo utilizzano un po' così, anche perché la sensibilità dell'opinione pubblica che andrebbe raffreddata, io questo sono d'accordo, come condivido anche l'opinione del Presidente Rossi che la realtà di come si trattano gli immigrati, anche anche nel primo accoglimento, al di là delle responsabilità preminenti delle strutture statali, ovviamente, nella realtà hanno bisogno di un'integrazione sempre più rapida ed efficace con tutto il volontariato e i diversi modelli del volontariato, perché questo crea un'atmosfera di diversa calore immediato rispetto alle popolazioni già residenti, rispetto ai tessuti economici residenti, evitano quell'effetto di deportati a vista e di rischiosità immediata percepita, e questo è uno degli aspetti fondamentali che rendono proprio questo tema delicato, anche perché le strutture centrali in realtà a cui questo meccanismo di gestione è molto oneroso, in realtà di grandi fondi a disposizione non ce n'hanno. I 500 milioni ramazzati e annunciati ieri dal ministro aggiuntivi sono uno sforzo veramente straordinario per un apparato di sicurezza come quello italiano, su cui polemizziamo da anni, perché è costretto anch'esso a fare i conti con un rigore assoluto. Il meccanismo di rimpatrio che si era determinato negli ultimi anni, quello per cui non si riusciva a rimpatriare più di 4 clandestini con i paesi in cui sono protocolli vigenti per ogni volo, perché per uno di loro c'era almeno 3 personale di sicurezza italiano a disposizione, è un meccanismo che sicuramente non può consentire lo smaltimento delle migliaia comunque di clandestini che si sono aggiunti ai profughi e a chi avrà titolo per essere profughi nell'ondata in questi giorni. Quindi bisognerà ripensare molto, sono meccanismi onerosi, bisogna che ci sia questo sforzo di cooperazione col tono basso e appropriato, come ci proponeva il presidente della regione Toscana. Ora andiamo in pubblicità, poi torniamo con il sindaco di Lampedusa e con Jean Leonard Touadi, deputato del PD, che era già collegato da minuti, mi scuso perché non ve l'ho presentato. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando dell'immediato fenomeno di aumento degli approdi, innanzitutto a Lampedusa in questi giorni, saltato il filtro dalla Tunisia e dalla Libia, e degli obblighi che incombono sull'Italia, della difficoltà fino a questo momento di verificare con mano una vera disponibilità europea, non solo al pattugliamento ma anche alla ripartizione dei nuclei. Abbiamo sentito il piano illustrato ieri dal ministro Maroni alle autonomie italiane, è stato con noi il presidente della regione Toscana che ci ha illustrato la disponibilità da una parte, l'appello a trattare il tema con toni misurati. Però è vero che nella assoluta stragrande maggioranza degli sms che state mandando la reazione è una, dicendo beh, voi non potete però dire che la colpa è dell'opinione pubblica, della gente, degli italiani, che dei clandestini aggiuntivi non ne vuole sentire parlare, e a maggior ragione dopo gli anni di crisi, e a maggior ragione laddove nelle le aree italiane in cui la percentuale di popolazione straniera non è il 6 e qualcosa per cento di media nazionale, ma è il doppio se non il triplo, come capita in alcune aree del nord-est, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, e dove il livello di addensamento dei problemi per l'housing sociale, per l'integrazione in quartieri popolari è tradizionalmente molto forte, come appunto non perché gli italiani sono cattivi, ma perché le vicende di cronache confermano in questi anni che fare un salto in pochi anni e realizzare la piena integrazione non è esattamente un compito che si può lasciare solo sulle spalle dei cittadini, che avvertono la concorrenza immediatamente per le qualifiche di bassa specializzazione per il reddito disponibile da parte degli immigrati clandestini, il più delle volte, e non solo quelli legali. Allora, sentiamo come la pensa in questo Jean-Léonard Touadi, un parlamentare del PD, e naturalmente immagino molti di voi abbiano presente che l'esperienza che Touadi ha portato è un'esperienza radicata a Roma e nell'amministrazione di centro-sinistra di Roma, è un'esperienza che gli deriva naturalmente dalla sua storia personale. Touadi non parla per sentito dire, per così dire, ecco, dei paesi francofoni africani, ma per esperienza diretta, per appartenenza e per evoluzione della sua formazione culturale. Che impressione ha Touadi di come stiamo affrontando questo primo impatto della vicenda libica in corso? Innanzitutto buongiorno e grazie a lei. Sì, buongiorno e a tutti quelli che ci ascoltano. Ma io non sottovaluterei le paure che esistono in alcune frange sociali del nostro paese, appunto, come dicevate voi. Di fronte alla crisi c'è questa sensazione che chi arriva ultimo rischia di strapparmi dalle mani le poche possibilità, le poche opportunità sociali che esistono. Proprio perché ci sono queste paure irrazionali, io penso che il ruolo della politica è di ricondurre queste paure, come si diceva prima, a una gestione razionale e a una possibilità di dare uno sbocco che possa contemplare i diritti di tutti, le opportunità di tutti. purtroppo per l'Italia la geografia non è una scelta, noi ci troviamo in questo posto del Mediterraneo, siamo diventati porta d'Europa e questo è un concetto che va sottolineato, siamo entrati in una fase di globalizzazione dove le parole interconnessione e interdipendenze non sono più solo, come dire, un sogno di qualche sognatore, ma è diventato qualcosa di reale, dove dobbiamo sempre essere chiamati nel futuro a coniugare quelli che sono gli aspetti locali con quelle spinte della globalizzazione che appunto sottolineano sempre di più l'interdipendenza e l'interconnessione. Detto questo, il governo penso che da ieri abbia imboccato finalmente quella strada virtuosa che è fatta di pianificazione, che è fatta di coinvolgimento degli enti locali, che è fatta di stanziamento, seppur in situazioni contabili difficili come quella che noi stiamo vivendo, dimenticando appunto quell'altra spinta dei primi giorni di cercare di instillare, come dire, questa specie di sindrome da invasione che poi rende difficile nella popolazione e nell'opinione pubblica accogliere queste persone che arrivano. Devo dire, onorevole Tuadì, che analogo cambio di passo non lo hanno avuto per esempio le autorità francesi, grazie ai cui muscoli le operazioni in Libia sono andate avanti a qualche problema di consenso, innanzitutto a cominciare dalla Lega Araba, perché il presidente Sarkozy e i suoi ministri su questo non hanno mai cambiato linea dicendo noi non ce ne prendiamo nemmeno uno, che non è esattamente un approccio che a me sembra responsabile. Le chiedo di rimanere con noi per commentare le telefonate dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Alberto che ci chiama da Perugia. Prego Alberto. Buongiorno Giannino. Dica. Senti, io vorrei fare una domanda semplicissima. Questa permanenza in questi centri, oserei dire, forse un po' sbagliando, albergo, ma quanto ci costeranno al giorno agli italiani? Io vado avanti con 450 euro di pensione al mese e quello penso che costino molto di più al giorno e poi ci vorranno mesi, anni per integrarli. Chi se li prende? Dove si mettono? Grazie Giannino. Prego Alberto, guardi, io ieri tenevo una conferenza al CASD, che è il Centro Alti Studi di Difesa, che non c'entra niente con questo, però ero in contatto con un altro ufficiale della Guardia di Finanza che per anni, quando era il comando operativo in Puglia eccetera eccetera, si occupava direttamente dei meccanismi di sicurezza collegati alla gestione dei CIE e diceva che mi ha informato, perché gli ho chiesto esattamente quello che ha chiesto lei a me oggi. E lei mi ha detto, lei sa che per i CIE la gestione per esempio della ristorazione eccetera si fa con gare bandite dalle prefetture o dai commissari responsabili, con gare che si fanno all'esterno della struttura, cioè non è che ci pensano gli apparati dello Stato a predisporre i servizi aggiuntivi igienico-sanitari, alimentari eccetera. E lui mi ha detto, fino all'anno scorso in cui me ne occupavo direttamente, mi diceva questo alto ufficiale, il costo medio di un elemento in CIE era di 180 euro al giorno di spesa aggiuntiva per l'amministrazione centrale. Naturalmente dice è un costo di cui poi bisogna fare media, perché ci sono dei picchi, perché quando poi ci sono i trasferimenti, in questo caso gli apparati di sicurezza, è vero che sono quelli ordinari delle forze di sicurezza italiane, però naturalmente poi il picco aumenta perché straordinari, così via eccetera eccetera, quindi poi dice non parliamo del meccanismo di rimpatrio, che è un meccanismo onerosissimo, però più o meno quello ci dà un'indicazione di quanto può essere il costo gestione individuale, medio, aggiuntivo. Ermanno da Modena, prego Ermanno. Ermanno da Carpi, provincia di Modena. Dica. Benissimo Giannino, siccome io sono uno di quelli che paga le tasse, quel signore di prima mi ha rubato la domanda. Io chiedevo appunto, dato che il mio Stato tutti i giorni mi ricorda quante sono i numeri dell'INPS, dell'INDAP, dell'INAIL, ecco, cosa ci costano questi centri di prima accoglienza? Perché io, cioè, insomma, bisogna parlarci chiaro, tutti quanti i nostri politici parlano di solidarietà, di accoglienza, parole troppo sfruttate. Bisognerebbe che gli italiani si svegliassero, invece di fare la domenica le manifestazioni per le veline, bisogna incominciare a dire basta con questa invasione, perché non è immigrazione, è invasione. Tutti questi begli aerei che girano per il Mediterraneo, fare passare qualche bombetta nel centro del Mediterraneo, ecco, qualche scafista in meno lo avremmo senz'altro davanti a Lampedusa. Questa non è cattiveria, perché questi paesi hanno cacciato il cattivo bianco, vedi Algeria, vedi Congo belga, vedi Tunisia e Libia. Ecco, l'Africa ce l'hanno adesso in mano, ce l'hanno tutta, se la tengano. Sono stato chiaro? Eh sì, direi di sì, Ermanno, è stato abbastanza chiaro. Giorgio da Pisa, prego Giorgio. Io volevo dire solamente una cosa, ma tutti i delinquenti scappati dalle prigioni libiche, tunisine, egiziane, secondo lei dove sono andati ora? Vengano tutti in Italia, perché qui è il paese del Bengodi. Noi siamo una massa di asini a governare questa gente in modo troppo benevolo, tutto lì. E questo è uno dei problemi, come si fa il vaglio tra chi ha titolo per davvero essere profugo e l'asilo, chi è clandestino immigrato e chi invece semplicemente non ci mette in condizione di accertare la sua identità? E questo è un altro grande problema. Allora, ora abbiamo il minuto di informazione sulla circolazione stradale, poi ancora telefonate vostre e insieme il commento dell'onorevole Tuadi. Le ultime notizie dicono carri armati e cecchini nel centro di Misurata, quindi no al cessate il fuoco di cui il regime libico continua a dire di essere in linea con il cessate il fuoco che dichiara, anzi chiede la verifica immediata da parte degli osservatori internazionali, però gli osservatori in loco sulle cittadine e città libiche in cui è ancora aperto il confronto militare tra gli insorti e le forze di Gheddafi smentiscono questa posizione ufficiale delle autorità libiche. Poi dall'università Al-Azhar, uno dei maggiori centri di orientamento del pensiero islamico, la condanna da parte di molti ulema dell'intervento occidentale, eccesso di forza assoluto, ultroneità rispetto, sto traducendo il volo dall'inglese, rispetto a ciò che stabilisce la risoluzione 1972 delle Nazioni Unite. Un'intervista per chi volesse approfondire su avvenire, il presidente Formigoni, che ribadisce la sua linea di obiezioni a come è stata condotta l'operazione fino a questo momento da parte di francesi e Londra, troppa fretta per le bombe. Sentiamo ancora alcuni di voi. Mariangela che chiama da Perugia, prego Mariangela. Dottore, buongiorno, buon lavoro e buona giornata a tutti. In merito sempre a queste persone che dovremmo ospitare e che dobbiamo praticamente anche mantenere, perché o con l'aiuto dell'Europa o con l'aiuto nostro dobbiamo dargli da mangiare, allora io direi, ma queste persone che stanno con le mani in mano tutto il giorno potrebbero gestire la struttura in cui vengono ospitate, quindi pulirla, tenerla in ordine, e poi perché no anche utilizzarli proprio per non far sì che queste persone vadano in giro a commettere cose che sarebbe preferibile che non succedessero, che potessero essere utilizzate per pulire le strade. Ci abbiamo delle strade dell'ANAS, del comune, della provincia, che sono piene di carte, piene di sporcizia, e a questo punto approfittiamone. Lei che dice? Dico Mariangela che la seconda cosa è impossibile, cioè non si può utilizzare i lavori socialmente utili quando la permanenza in un centro è fatta apposta, perché nella verifica dei titoli di a seconda di come vengono graduati nel nostro ordinamento i titoli e i diritti, è abbastanza incompatibile con il pieno accesso all'uscita fuori, capisce? Proprio è una questione che rende secondo me molto complicato, anzi impossibile, il fatto di metterli i lavori socialmente utili, ai quali loro avrebbero pieno diritto poi di non prestarsi, tanto per essere chiari. Il coinvolgimento nella gestione dei centri è stato più volte tentato nei CIE, però non dimentichiamoci che quando poi si tratta di mettere mano a trasferimenti eccetera, le devastazioni sono all'ordine del giorno per impedire che avvengano, e soprattutto quando poi si fa la selezione per i rimpatri. Quindi anche questa è una questione, basta parlare con chiunque delle forze di sicurezza italiane che hanno esperienza in questo per sapere che non è solo il migliore dei mondi possibili. Mario ci chiama dalla provincia di Venezia, prego Mario. Sì, buongiorno a lei. Io solamente volevo fare un'osservazione, una cosa che ho notato. Sostanzialmente non ci sono donne. Cioè, vediamo migliaia di maschi, perfetti single, non ci sono donne, non ci sono bambini, o li hanno lasciati lì a farsi bombardare, sparare, o a questo punto non saprei che altra osservazione fare. Non so, lei che ne dice? Le poche donne derivano dal fatto che di solito il traffico di carne umana, che è una componente dalla parte subsahariana dell'Africa attraverso la quale i tunisini e i libici chiudevano gli occhi, per così dire, è ovvio che sono gli uomini ad andarsene prima. Comunque sentiremo anche tu su questo. Giancarlo da Milano, prego Giancarlo. Sì, buongiorno dottor Giannino. Mi sento una mosca bianca, mi sembra. La mia sensazione è che tutti quelli che mi hanno preceduto, tranne il penultimo, la penultima signora, siano o leghisti o filoleghisti. Cioè, io mi domando, ma com'è possibile pretendere che questa povera gente rimanga là dov'è, a essere sfruttata e senza alternativa? Addirittura buttiamo qualche bomba nel Mediterraneo, che così almeno li convinciamo a stare a casa loro. Ma è una roba veramente allucinante. L'ultima cosa, quel signore che dice che prende 450 euro al mese di pensione. Io sono un pensionato, ho lavorato per 40 anni, non prendo 450 euro, prendo quanto ho pagato per avere la pensione. Quel signore non ha pagato niente, non ha pagato una lira e prende la minima. E poi pretendono, cioè io mi domando come è possibile ragionare in questo modo. Noi siamo un paese di emigranti, abbiamo emigrato in tutto il mondo e adesso rifiutiamo la gente che viene qua, poveraccia, no, che non sa come sbarcare il lunario. Non lo so, è veramente una roba scandalosa, non lo so. Ecco, come vedete, però noi siamo aperti a tutti. Devo ammettere, i più attivi nella reazione sono coloro che dicono basta, perché in pochi anni ne abbiamo presi quanto altri paesi occidentali in secoli, perché l'aumento delle percentuali, quando non corrisponde a una lunga cultura, e ovviamente comporta un mucchio di fenomeni. Sono anni che ce ne occupiamo, quindi non si deve sorprendere, Giancarlo, se i toni di molti dei più che reagiscono sono di quel tipo. Io devo sempre dire che ho sempre detto che li capisco, io non posso permettermi di condannarli, perché in effetti in pochi anni l'impatto in alcune aree d'Italia è stato molto forte. Poi io sono di quelli che dicono che appunto la geografia non si sceglie, come ci dice tu Adi, ed è così, la nostra geografia è qua, abbiamo la storia che dice lei, bisogna però tentare di capire che altrove i governi hanno un pugno di ferro di gran lunga superiore al nostro, e purtroppo la politica italiana su questo si è sempre divisa arroventando il clima invece che tentando di far radicare trasformazioni culturali. Massimo da Roma, ancora rapido, prego Massimo. Rapidissimo, esterno, buongiorno a tutti. La mia totale confusione di questo periodo, anche di questo fatto del siamo in guerra, non siamo in guerra. Però tornando sui migranti, qualche giorno fa, credo una settimana, una sua ospite ha parlato di modello Germania, sì. 300.000 se non sbaglio l'anno dopo la guerra balcanica, per 10 anni, sono numeri che rispetto ai nostri di questo momento, ai previsionali di questo periodo, fanno abbastanza ridere. Non ci interroghiamo mai di come mai un paese come quello ne ha fatto sicuramente un problema, ma non uno scandalo come il nostro. E da noi invece, pur corrispondendo e pur comprendendo, ma Massimo, però Massimo, attenzione, perché i numeri, quando a Piller, il collega della FAS, la Frankfurter Allgemeine, ci ricordava la complessità del fenomeno dei tedeschi dall'est alla caduta del muro. Quindi non era per la guerra balcanica, non erano 300.000 serbi per 20 anni ogni anno, perché sennò sarebbero 6 milioni di serbi, capisce? Non è questo il punto. Comunque, il suo appello è: la Germania ce l'ha fatta e noi no. La Germania ha iniziato a importare lavoratori turchi quando noi avevamo il problema tra nord e sud nel nostro paese negli anni 60. Anche in quel caso c'è un modello culturale che deriva dal fatto che poi l'amministrazione ottomana, prima di Kemal Atatürk, era con l'impero guglielmino che aveva il modello amministrativo e militare. Anche lì c'è un rapporto storico lungo nel tempo. Tu Adi, in conclusione, che impressione di come gli italiani reagiscono, come sente? Prevalgono i preoccupati, quelli che dicono no, se li prendano gli altri? Cosa si può fare, tu Adi? Una politica responsabile che può dire? Sì, ma io penso che la politica non deve sottovalutare né stigmatizzare come semplicemente razziste queste reazioni. Ecco perché bisogna sempre, come dire, continuare a ragionare. E ragionare in termini di costi, penso che bisogna far capire che questa accoglienza momentanea che noi diamo a questa gente sono un investimento sulla stabilità. Quando l'abbiamo fatto per i profughi dal Balcani, quando l'abbiamo fatto per i profughi dall'Albania, nella media e nella lunga scadenza noi abbiamo ottenuto un effetto di stabilizzazione di questi flussi, perché poi abbiamo investito su questo paese, segnatamente l'Albania, e i flussi sono diventati residuali, come sappiamo. Fatti. Nei costi e benefici, per esempio, io sono uno di questi che dice noi paghiamo questi costi che avremmo potuto pagare in termini di cooperazione, esatto, per frenare, per attutire i fattori di espulsione di questa gente dai loro paesi. Affermo il diritto all'accoglienza, ma affermo anche il diritto di queste persone a restare nei loro paesi, perché la selezione naturale che sta avvenendo, cioè i migliori che partono, i più scaltri, quelli più giovani, indebolisce il tessuto produttivo è come il brain drain italiano dei migliori che vanno all'estero, in scala naturalmente per i rispettivi problemi di questi paesi. La mia opinione in conclusione è che in queste ore decisive, stante il fatto che non credo ai francesi che accettano il coordinamento NATO, ve lo dico fuori dai denti, credo che ci stiamo perdendo per strada il consenso della Lega Araba, dei paesi, dell'opinione pubblica musulmana. L'Italia secondo me deve in queste ore, in questi giorni, differenziare la propria azione e mettere in piedi una vera azione nei confronti del regime di Gheddafi, di mediazione per la soluzione del problema, che non si risolve con le bombe della sua uscita dal potere, non si risolve con le sole bombe, e in questo mettere immediati interventi anche di campi ai confini con l'Egitto e la Tunisia, perché è lì oggi il problema che tentino di frenare a nome dell'Europa e col pieno mandato europeo. Senza di questo le basi italiane devono iniziare a far decollare meno velivoli degli altri. Chi non si piglia responsabilità su questo e fa solo i voti come Monsieur Sarko a casa sua facendo volare un po' di aerei, secondo me è un pessimo politico, un pessimo costruttore di ponti con Nord Africa e il mondo musulmano, ed è un pessimo servitore dell'idea di un'Europa comune. Troppo comodo dire agli italiani pagate solo voi. A domani, Lina Giornale Radio.